La vita in un film di Franco D'Assisi. Quando si era ragazzi, io mi ricordo che ci chiedevano a tutti che si voleva fare da grandi. C'era chi voleva fare il pompiere, chi l'ingegnere. Io rispondevo sempre: io da grande voglio fare il comunista. E ora invece sono qui a pescare, perché questo partito gli è morto, capito? Ma che pesco! Ora incomincia a tirare bestemmie. No, che non possono, su testa, calmo. Perché se tu cominci a tirare bestemmie, io va a finire che non tiro su nemmeno un pesce. Capito? Calmarli, guarda, io sono capace di andare a Mosca, pigliare quello con quella voglia nel viso e levargli le voglie a forza di perestroide, te lo dico io. E poi sul finire ci fu la rivolta. Le scuole e le fabbriche scesero in piazza. Il babbo ogni giorno finiva sconfitto da Mao Che Guevara, così andava a letto. E buonasera, buonasera da Franco D'Assisi. Comincia un'altra settimana, La vita in un film, qui su Radio 24. Io vi do subito il nostro numero di telefono, che è l'800 24 00 24, perché tutte le sere, ma mai come questa sera, è la vostra partecipazione importante. Abbiamo scelto un tema un po' particolare, un po' alternativo per questa puntata della Vita in un film, che come sempre chiede al proprio pubblico, ai propri ascoltatori, in quale film si sono rivisti, si sono identificati. E dalle parole, dalla clip iniziale, da questa canzone che vi abbiamo proposto, avete forse capito che si tratta di politica, ma di una politica un po' nostalgica, forse, comunque legata a un periodo che, possiamo dirlo, non c'è più, almeno sotto quella forma, la famosa militanza politica. È chiaro che il cinema si è mosso in questo senso, soprattutto raccontando la militanza politica della sinistra, e quello che avete sentito era Zitti e Mosca di Alessandro Benvenuti, un film che proprio analizzava questo rapporto in un momento di delusioni, di cambiamenti di orizzonte politico e anche di orizzonte storico. Zitti e Mosca non è stato l'unico film che ha raccontato il travaglio, appunto, della sinistra, ma in generale, appunto, la militanza, le feste dell'unità, le sezioni di partito, tutta una vita che ovviamente può essere stata vissuta da chi ci ascolta anche in altri partiti, tranquillamente, e che però, appunto, merita forse di essere vista anche con un sorriso oggi, nel 2009, quando tutto questo modo di vivere, appunto, la politica come fatto quotidiano non c'è quasi più, o insomma lo si vive in una maniera molto diversa. Alessandro Benvenuti quindi sarà l'ospite di questa puntata della Vita in un film, proprio perché ci ha raccontato Zitti e Mosca, ma come dicevo non è stato l'unico. C'è stato Nanni Moretti che ci ha regalato 3 o 4 film proprio sul tema, a partire da Aprile, pensate a La Cosa, Il Caimano, ce ne sono stati tanti. C'è stato un grande film degli anni 80, dell'inizio degli anni 80, che è stato appunto il film di Giuseppe Bertolucci, Berlinguer, Ti voglio bene, e anche qui si raccontava una storia che era quella di una devozione quasi, e di un mezzo per evadere da una famiglia troppo oppressiva. In quel film esordì al cinema Roberto Benigni, insomma fu un esordio importante. E allora un tema che molto spesso è stato avvicinato dal cinema, quello appunto della militanza politica, insieme a quello di quello che circondava questa scelta, ovvero la famiglia, le donne, sono andati a braccetto i temi del sociale, come si suol dire. E allora di questo vogliamo parlare, l'800 24 00 24, qui alla Vita in un film. Ricordo il numero per gli messaggi SMS, 349 238 6666, e vi ricordo che come sempre anche questa settimana ci sono a disposizione ogni giorno tanti biglietti per serate al cinema. Cominciamo quindi con Alessandro Benvenuti. Dicevamo Zitti e Mosca, ma anche la canzone che avete sentito tratta dallo spettacolo che Alessandro Benvenuti sta portando in giro per l'Italia, uno spettacolo nel quale l'attore toscano canta. Non è una novità per lui, ma lo è magari per molto del pubblico. Lo spettacolo si intitola Capo Diavolo, e quel brano nel quale Benvenuti ricostruisce un po' la sua storia, ma anche uno spaccato dell'Italia, è proprio tratto da Capo Diavolo. Questa frase che vi abbiamo fatto ascoltare dice: il babbo ogni giorno finiva sconfitto da Mao e Che Guevara, così andava a letto. Abbiamo chiesto ad Alessandro Benvenuti il significato di questa frase. Beh, accadde a un'intera, diciamo a una parte consistente di una intera generazione, il rifiuto del padre e la ricerca di vari padri putativi, tra questi diciamo chi era della sponda di sinistra come padri putativi scelse Mao e Che Guevara, insomma erano un po' i punti di riferimento di allora. Io vivevo una realtà, quella di Pontassieve, che era una realtà fortemente politicizzata. In poche parole, ecco che ho descritto quel momento lì, l'annullamento del proprio padre, il rifiuto del proprio padre già iniziato dagli anni 60, culminato proprio in questa accettazione di padri putativi e poi dopo il padre vero. Io ho avuto poi il tempo di riscoprirlo, ma all'epoca era fondamentale bruciare i propri padri per cercare delle paternità altre, diverse. È stato un momento così, c'è stato del buono e c'è stato del non buono, poi come sempre quando uno tira le somme si rende conto se quello che ha fatto gli è servito o non gli è servito. A me è servito per allargare un po' gli orizzonti, diciamo così, del pensiero e poi per poter recuperare appieno e degnamente la figura del padre vero. Avanti o popolo, la risposta, bandiera rossa. Elio, perché non si sente niente? Tanto che quello che dicono, avanti o popolo, non ci sta vicino a questa maniera, ti fa male agli occhi, capona. Sono una bambina, pensa per te, capone. O corpo, no. Se tu mi metti sotto anche bandiera rossa, diciamo sì, un mesì. Un mesì, un tisì, che? Basta, adesso si dà colpa a bandiera rossa. C'è un TC. Ma almeno un po' più basso, di volume, basta poco, un po' più basso. Ecco, allora ve lo spengo, eh? Così vi fai il vostro lavoro in silenzio, no? E questo era proprio Zitti e Mosca di Alessandro Benvenuti, nostro ospite in questa puntata della Vita in un Film, una scena abbastanza divertente nella quale si cerca da una parte, in una stanza della casa si cerca di concepire un figlio, dall'altra si guarda davanti alla televisione un comizio politico appunto annunciato da Bandiera Rossa. 800 24 00 24 per partecipare a questa puntata della Vita in un Film, tema la militanza politica o se volete c'era una volta la sinistra. La Vita in un Film. Ed eccoci di nuovo insieme, La Vita in un Film, 800 24 00 24 per partecipare, per andare qualche sera al cinema con i nostri biglietti che sono qui che vi aspettano e per parlare appunto del tema della militanza politica vissuta proprio nella propria quotidianità in un certo senso, così come era negli anni 70 raccontati da Zitti e Mosca o da tanti altri film di cui fra poco sentiremo alcune clip. È già in linea un nostro ascoltatore, Silvio da Pisa, che saluto. Buonasera Silvio. Buonasera a lei. Allora, quale film ha scelto? Quale film ricorda qualcosa di sé in questo senso, in questo tema? Ma dunque, io ho scelto il film che si intitola Mio fratello è figlio unico. È un film uscito, credo, 2 anni fa. Sì, 2007, esattamente. Nel quale si parla, diciamo, di due fratelli che hanno due militanze opposte, uno diciamo fascista e l'altro comunista, diciamo. Sì, assolutamente, un film tra l'altro molto molto riuscito, che ha avuto anche un ottimo successo, questo di Daniele Lucchetti. Sì, che ha lanciato Guido Germano, credo, insomma è un film che... Elio Germano, sì. sì, Riccardo Scamarcio e Elio Germano erano i due fratelli, poi vabbè c'erano nel cast anche Luca Zingaretti, Angela Finocchiaro, insomma certo. Un film importante. Ecco, ma lei ha vissuto una storia di questo tipo? Ma personalmente... Sì, diciamo che personalmente, dunque, la mia famiglia, come molte famiglie italiane, insomma, siamo divisi tra chi la pensa in un modo e chi lo pensa in un altro. Poi, chiaramente non siamo arrivati agli estremi del film dove uno diventa terrorista e l'altro, diciamo, prima da una parte e poi torna dall'altra parte, insomma, non a questi estremi, però sicuramente penso sia un'esperienza. Certo, frizioni non ne sono mancate, insomma, mi sembra di capire. Beh, questo è un taglio importante, perché effettivamente per una volta con Mio fratello e figlio unico il cinema italiano ha riflettuto proprio su questo tema, cioè sulla divisione interna alle famiglie che c'era, molto più di quanto magari non si potesse pensare. Grazie a Silvio da Pisa che con questa sua telefonata e con la prima partecipazione alla puntata di oggi della Vita in un Film all'800 24 00 24 si porta a casa 5 serate di grande cinema con il cofanetto Wazoo. Noi andiamo avanti in attesa delle vostre chiamate con Alessandro Benvenuti, il nostro ospite, il regista di Zitti e Mosca, che è un po', se vogliamo, uno dei primi ritratti di una generazione che andava incontro alla sconfitta. È così? Beh, direi proprio di sì. Io rammento che quando andai a Fontassieva a fare i sopralluoghi, avevo tutti gli amici e tutti i conoscenti della mia infanzia divisi in due, tra chi era di Rifondazione e chi era del PDS. Naturalmente avvertii una grande tensione da parte degli uni e degli altri nel dire: Sandro, stai giocando con la nostra memoria, insomma, stai attento a quello che fai, a quello che dici in questo film, perché noi ci stiamo con gli occhi puntati addosso. Diciamo che all'epoca questa cosa fu vissuta, almeno nei paesi nostri della Toscana, con una forte componente di dramma. Si capiva, insomma, che era la fine di un qualcosa, non solo perché venivano giù i muri, come dice la stessa canzone, venivano giù i muri anche i più sicuri, ma perché proprio si capiva che stava succedendo qualcosa e che indietro poi non sarebbe più stato possibile tornare. Questa era una cosa che si avvertiva molto nelle parole e negli occhi delle persone che io all'epoca intervistai per fare al meglio questo film. Non mi far vedere che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema, reagisci. Il problema oggi di questo paese. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci. E questo era Nanni Moretti, l'avete individuato, il famoso di qualcosa di sinistra, di qualcosa, che è stato un po' un grido di battaglia negli anni 90. Il film era Aprile e noi abbiamo all'800 24 0024 Giuseppe che ci chiama da Modena. Buonasera Giuseppe. Sì, buonasera. Allora, anche lei, la domanda è: ha rivisto qualcosa di un trascorso suo, di qualche conoscente dentro questo tema e questi film? Ma io sono giovane, diciamo, sono un ragazzo nato nei primissimi anni 80 e io verso l'età dell'adolescenza, diciamo ai tempi del liceo, mi sono appassionato tantissimo ai film di Nanni Moretti, a certi film, diciamo, che facevano anche riferimento a quel clima culturale, non so, anche lo stesso Bertolucci. E invecchiando non tanto, nel senso che non ho ancora passato la soglia dei 30 anni, mi è venuto lentamente una sorta di malincuore e di rabbia anche nei confronti di questa generazione, no? Generazione che ha decantato determinati valori, che si è battuta, salvo poi, diciamo, esaurirsi. Su YouTube c'è un bellissimo filmato di una trasmissione televisiva condotta da Arvasino, in cui, diciamo, si battibeccavano Monicelli, che allora era vissuto come un regista reazionario, e oggi sembrerebbe un po' incredibile, e proprio lo stesso Moretti. E in quella sede, se avete occasione di recuperarlo, vi consiglio di guardarlo, e in quella sede proprio Nanni Moretti, insomma, spingeva verso un cinema nuovo, verso degli orizzonti nuovi, salvo poi essersi esaurito moltissimo, essersi istituzionalizzato. Certo. Mentre Monicelli, prego. No, dico certo, assolutamente, me lo ricordo. Tra l'altro è il duello Monicelli versus Moretti su internet e su YouTube, appunto, è abbastanza, insomma, ormai consolidato come contenuto, molto molto cliccato, tra l'altro. Ma le voglio chiedere questo, però. Lei è, appunto, a quanto ho capito, di una generazione che non ha vissuto la militanza politica come raccontata dal cinema, che, torno a ripetere, non ha un colore. Noi oggi stiamo parlando di militanza politica. È certo che in Italia quel tipo di cinema lo ha fatto soprattutto, ha raccontato soprattutto la militanza politica di sinistra, però il nostro discorso è generale, è quando si andava alla sezione di partito, quando si andava al comizio, quando si andava alla festa di partito. Ecco, lei queste cose sostanzialmente non le ha vissute. Le mancano? No, ecco, ma le mancano, cioè, viste al cinema, sente di aver avuto, come dire, una possibilità in meno? Ma ecco, visto che stiamo parlando di Nanni Moretti, io credo che una cosa bella che avesse dato lui al cinema fu La Cosa, no? Quel documentario in cui raccontava la trasfigurazione del Partito Comunista Italiano. E quell'ambiente, quella situazione, quella passione che i comunisti di base, diciamo gli operai, mettevano nel cambiamento, è un momento che mi dispiace di non aver vissuto. Cioè, effettivamente credo che ci sia stato tutto un... ecco, nella cosa emerga, no? Quanto certo, assolutamente, assolutamente. Nella cosa, questa cosa è trattata appunto proprio sotto il profilo anche proprio documentaristico in un momento critico di passaggio. Grazie anche a Giuseppe da Modena, ci sono due biglietti per il cinema, due serate al cinema anche per lui. 800 24 00 24, la vita in un film, la militanza politica, gli italiani e la politica fra virgolette giocata, diciamo così, non quella parlata o vissuta solo in televisione come si usa fare adesso, ma una militanza politica vera che forse ancora oggi in qualche partito, vedi la Lega per esempio, ha ancora un suo radicamento con la base. Ecco, allora come l'avete vissuta, come l'avete vissuta attraverso il cinema? Noi andiamo ancora dal nostro ospite Alessandro Benvenuti per parlare ancora di Zitti e Mosca, perché in Zitti e Mosca, rivedendolo, abbiamo notato tanti elementi di modernità, lo stesso smarrimento della base che viene vissuto oggi di fronte per esempio dalla base della sinistra di fronte al Partito Democratico, lo stesso senso di scarsa appartenenza, solo che adesso non c'è più nemmeno un partito. All'epoca c'erano due nascite, cioè c'era una nascita e una sorta di rigenerazione da parte chi rimaneva, diciamo così, fedele alla linea, come si suol dire. Non c'era lo smarrimento dell'identità, c'era lo smarrimento di una consuetudine, di abitudini come quelle delle feste dell'unità. Praticamente negli anni 70 ci fu una specie di acculturazione delle feste dell'unità ed erano diventati non più dei luoghi mangerecci e ballerini, ma erano diventati anche dei luoghi dove si faceva cultura, non solo attraverso i dibattiti, ma anche attraverso gli spettacoli. Ecco, io oggi ho ritrovato, diciamo così, quella situazione di disattenzione che però oggi fa parecchio effetto, perché oggi ha il sapore di una resa. All'epoca era l'inizio di una battaglia per la cultura. 34, 24, basta con la tombola! Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio, presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. Anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. Ecco il tema. Vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No! Perentoria la risposta in una sezione del Piccin. Berlinguer, ti voglio bene. Prima ho fatto un errore, ho detto inizio anni 80. In realtà 1977 è la data d'esordio di Giuseppe Bertolucci con questo film e di Roberto Benigni che ne è il protagonista. Avete sentito uno dei temi anche appunto della sinistra dell'epoca, che era alla fine un certo maschilismo, perché si faceva un bel parlare di femminismo, di donne, di avanguardia, eccetera eccetera, ma c'era una radice culturale ancora molto forte da superare ed è stata ironicamente messa in scena in questo spezzone che vi abbiamo presentato di Berlinguer, ti voglio bene. C'è in linea Stefano da Roma all'800 24 00 24. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, buonasera anche ad Alessandro Benvenuti. Io il mio film politico vi faccio tornare molto indietro ed è praticamente coevo come uscita a Berlinguer, ti voglio bene, anzi probabilmente qualche anno prima. Ci eravamo tanto amati, credo che sia uno dei film politici più belli, più poetici, con un cast strepitoso, da un Vittorio Gassman a rivista, un Nino Manfredi prototipo del proletario comunista, una Stefania Sandrelli che oscilla, l'intellettuale Santa Flores, la musica di Trovaioli. Credo che sia un film da rivedere, da riscoprire, perché è un affresco di 30 anni con dei cammei meravigliosi da Fellini mentre gira la scena di Fontana di Trevi, anche con Mastroianni. Insomma, credo che lì ci sia molto e forse tanto di quello che stava dicendo anche Benvenuti, ovvero un'Italia che lentamente, già a metà degli anni 70, si andava sfilacciando sotto l'aspetto del tessuto sociale politico. Grazie a Stefano da Roma, perfetta la sua disamina di ci eravamo tanto amati, e mi piace il fatto che Stefano abbia colto il senso della nostra puntata, cioè proprio raccontare l'Italia attraverso la militanza politica nel cinema. Ci eravamo tanto amati era del 1974, giusto per aggiungere un dato statistico. Allora noi ci avviamo verso la conclusione, ma vogliamo ancora fare una domanda che è proprio legata all'attualità. Oggi non esiste più il PC, non esiste più il PDS, non esiste più neanche quello che c'è stato dopo, i Democratici di Sinistra, esiste il Partito Democratico. Il Partito Democratico è in grado di generare un'attenzione da parte del cinema, di essere raccontato al cinema? Francamente no, poi ognuno diciamo va per strade sue, io sto cercando il senso della mia vita. Ma veramente, insomma, oggi noi si vive in una società mobile, talmente mobile, una società oceanica, nel senso proprio alludo proprio alle onde dell'oceano che non se ne stanno mai ferme, per cui è difficilissimo trovare delle abitudini, perché ogni giorno cambiano le regole, cambiano le cose, esce un nuovo prodotto, ti devi mettere alla pari soltanto per capire come funziona un iPhone. Io credo che sia abbastanza difficile già rimanere in sé, nel buon senso di ciascuno di noi. E questo era Alessandro Benvenuti proprio sul futuro del cinema politico in un certo senso in Italia. Siamo arrivati alla fine di questa puntata della Vita in un Film, appuntamento domani alle 18. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.